Soundcheck, il suono della musica di JJ Telesco. Ci siamo pronti per il soundcheck qui su Radio 24. Buon pomeriggio da Gege Telesforo e ancora buon pomeriggio e bentornato al maestro Roberto Gatto. Buon pomeriggio Roberto. Buon pomeriggio a voi e bentrovati. Roberto Gatto, con Roberto abbiamo parlato ieri di musica, abbiamo parlato della sua passione per il suo strumento, per la batteria, ma oggi vorrei parlare della tua passione per la composizione. Io per organizzare queste due puntate ho riascoltato gran parte del tuo materiale discografico e effettivamente hai scritto dei brani bellissimi, con melodie, cioè hai un gusto, per essere un batterista, fatelo dire, hai un gusto melodico sopraffino. Da dove viene questo gusto per la melodia? Ma dalla passione che ho per la musica, e quindi non mi sono mai limitato solo a seguire il mio strumento. Sono un grande appassionato di musica, l'ascolto, amo la musica classica moltissimo, frequento i concerti di musica classica e comunque sono curioso, per cui uno degli aspetti della musica che mi sono sempre stati più a cuore hanno sempre riguardato appunto la sfera compositiva, la sfera anche della direzione d'orchestra, tutta una serie di cose che io seguo e che studio così al lato del fatto di suonare, per cui il mio approccio alla composizione è un approccio assolutamente naturale, tant'è che è più di un anno e mezzo che non scrivo, per esempio. Non scrivo perché non ho nulla da dire, ho ideuzze, cose che appunto che metto lì e che in realtà non mi convincono, oppure magari fra un po' le scoprirò e vedrò, però in questo momento non ho questa urgenza, cioè da una parte soffro perché dico ma perché non riesco a scrivere? Scrivere è un mistero, cioè Ennio Morricone per esempio usa scrivere sistematicamente, lui fa il compositore di professione ed esiste anche questa cosa, cioè lui sa che deve la mattina produrre un quantitativo di musica, è vero pure che magari anche a lui non uscirà qualcosa di geniale subito, però è vero che anche il sistema, l'approccio di sedersi a un pianoforte e di cominciare a dire devo scrivere, questa cosa in parte funziona. Il mio approccio è stato sempre invece il contrario, cioè quello di dire ho un'idea, la fermo, la fisso sul telefono o sul registratore e ci ritorno su e lavoro magari a quell'idea e esce fuori un pezzo a senso compiuto a volte, no? Difficilmente io abbozzo un'idea e poi la finisco, quando mi viene un pezzo mi viene abbastanza tutto di getto, quindi con un intro, con una prima parte, con un inciso eccetera eccetera, e esce fuori il pezzo, e sono pezzi infatti abbastanza orecchiabili quelli che scrivo, difficilmente mi imbatto in cose complicate, è capitato, però insomma sono tutti pezzi molto melodici, molto naturali, ecco. Ascoltando i tuoi dischi, poi quello che anche i musicisti possono pensare, ma come mai un batterista come Roberto Gatto poi non sfrutta la batteria come ci si aspetterebbe, no? Con assoli, cose pirotecniche, invece tu sottolinei con la tua batteria le tue melodie e lo fai benissimo, come per esempio per questa composizione che si intitola La Luna nel Pozzo, che è uno dei miei brani preferiti, qui realizzato sempre con Cavia Girotto e sassofoni, Gianluca Petrella al trombone, Stefano Bollani al pianoforte, Michel Benita al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. La Luna nel Pozzo, questo è il titolo del brano scritto da Roberto Gatto alcuni anni fa qui al soundcheck di Radio 24. Restate con noi, torniamo a parlare con uno dei grandi protagonisti della batteria italiana nel mondo. Soundcheck. Check, one, two. Il suono della musica. Thank you. la voce del grande Anthony Hamilton in Yet to Find, dall'album nuovissimo di Robert Glasper, Black Radio 2, già anteprima qui al Soundcheck di Radio 24, in questa giornata che dedichiamo alla musica e alla carriera di Roberto Gatto, che da un po' di tempo frequenta assiduamente New York City. Come mai anche tu questo grande amore per questa città? Ma ho sempre avuto la passione per New York, come tutti quelli che amano il jazz, evidentemente, anche tu ce l'hai. E quindi sempre, però, a causa della mia curiosità, il fatto di studiare ancora questa musica, di cercare di imparare sempre meglio a fare questo lavoro, alla fine ho deciso di comprarmi una casa lì. E comprandomi una casa, evidentemente ho la possibilità di andarci un po' più spesso di prima. Tra l'altro sto anche prendendo la green card, quindi comunque non per trasferirmi in pianta stabile, però non lo so, voglio aprirmi un varco negli Stati Uniti, in particolare appunto a New York, dove comincio a frequentare già da tempo i luoghi del jazz, conosco un sacco di musicisti, ho dei gruppi lì con musicisti fantastici, e questo mi offre la possibilità di essere sempre aggiornato, perché alla fine arriva sempre da lì l'impulso, quello più importante per la musica che noi facciamo. Quindi è importante guardarsi intorno, e quello è il posto più adatto dove guardarsi intorno, perché c'è un sacco di musica. Beh, spero ci sia a casa tua una brandina per me, perché prima o poi mi tocca arrivare a New York, perché ho un sacco di amici anch'io, lo puoi immaginare, e vorrei anche realizzare alcune puntate del nostro soundcheck proprio lì a New York, dove si è stabilito, così come stai facendo tu, non in pianta stabile ma per una curiosità musicale e per il desiderio probabilmente anche di aprire una strada diversa ai figli, il nostro amico Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. L'hai incontrato, Jovanotti, a New York o non ancora? Non ancora, ci siamo sentiti al telefono, ma quando lui era qua e ha detto: beh, la prossima volta che sei giù, poi insomma becchiamoci. In realtà io sono stato da poco, però non so se lui era lì, io ho avuto una settimana intensissima e quindi comunque non avrei fatto in tempo, però siamo in contatto, per cui sicuramente ci beccheremo. Allora, vedi, e poi si chiude un anello, perché parliamo anche di Lorenzo Jovanotti, perché noi abbiamo vissuto un'esperienza insieme, discograficamente parlando, abbiamo varie avventure che potremmo raccontare, ma questa è molto particolare, perché un po' di anni fa il nostro amico, il maestro Giovanni Tommaso, meraviglioso contrabbassista, compositore, arrangiatore, realizzò un disco intitolato Strane Stelle Strane, al quale hai partecipato anche tu. Vuoi raccontare che tipo di operazione era? Ma era un'operazione enorme per il periodo, perché coinvolgeva praticamente quasi tutti i più importanti cantanti italiani, e non solo italiani, anche dei calibri come Gilberto Gil e altri personaggi. E l'idea appunto di Giovanni era suonare con un gruppo di jazz di base tutti i grandi successi e farli cantare ai protagonisti principali. E questo è stato, insomma, mi ricordo che c'erano 12-13 cantanti, tra cui anche te, appunto, che hai affrontato poi il brano in questione. È un brano complicatissimo per me, perché fu chiamato Jovanotti a interpretare in questo arrangiamento super jazz Penso Positivo, il suo grande successo, ma non so per quale motivo, forse per motivi discografici o altro, Jovanotti non si rese disponibile per la registrazione, e quindi mi ritrovai da un giorno all'altro a studiare Penso Positivo e a fare quello che forse è il primo e ultimo rap della mia carriera in questa super band, con Giovanni Tommaso, Roberto Gatto, Flavio Boltro alla tromba, Pietro Tonolo al tenore e Danilo Rea al pianoforte. Penso Positivo, una versione molto interessante. Roberto Gatto è l'ospite del soundcheck di oggi. Siamo quasi ai saluti, ma abbiamo ancora un po' di tempo per suonare qualcosa. E vorrei raccontare il tuo rapporto con il cinema, da appassionato di cinema, ma anche di compositore di colonne sonore. Ma nella carriera di musicista capita anche questo. Ho avuto una parentesi in cui, proprio con Francesca Archibugi, insieme a suo marito Battista Lena, abbiamo lavorato a delle musiche dei suoi primi tre film, che sono stati tre film di grande successo tutti e tre. E precedentemente avevo già fatto un'esperienza appunto come autore di musica da film in un film di Nino Manfredi che si chiamava Nudo di Donna, un film in cui lui faceva anche la regia insieme a Maurizio Gianmarco. E è una bellissima parentesi, ho scoperto che è una delle mie grandi passioni, anche se non gli ho potuto dedicare il tempo che giustamente ci voleva, perché fare il compositore di musica da film è un lavoro a parte e quindi bisogna dedicarsi, è una questione anche di rapporti con i registi, con il mondo del cinema, insomma, che uno deve avere direttamente. Quindi sporadicamente può capitare, è capitato a me e come è capitato anche ad altri musicisti di jazz, di scrivere per il cinema, però essere compositori proprio di musica da film è un lavoro a parte, ho sempre considerato questo. E forse chissà che fra un po' di tempo, quando avrò rallentato la mia attività, diciamo, di musicista che va in giro a suonare, potrò dedicarmi a quello. In fondo almeno mi dicono sempre che nelle musiche che io scrivo c'è molto cinema, c'è un'idea appunto di descrivere attraverso appunto il suono e le melodie qualcosa che si associerebbe molto facilmente a delle immagini, e quindi penso di avere abbastanza delle chance per poter fare questo. Chissà che non lo farò. Io sono molto attratto dal lavoro dei grandi compositori, dai nostri italiani più grandi, da Morricone appunto a Trovaioli, a Piccioni, tutti quelli che hanno scritto per il nostro grande cinema, e tutti i grandi americani, a partire da Bernard Herrmann a John Williams e quanti altri ce ne stanno, tantissimi. Adoro quel mondo. È capitato anche a me con un amico, un formidabile regista di cartoni animati italiano, Enzo Dalò, che ha vinto tantissimi premi, che stava realizzando la colonna sonora insieme a Pino Daniele di un film intitolato O Popo Moz, la storia di tre diavoletti, e mancava un brano portante proprio per i titoli finali. Enzo mi chiese: ma mi puoi aiutare in qualche modo, mi manca un brano. Quindi, pensando ai diavoletti, pensando alla musica del diavolo, quindi a un blues, ho immaginato questo blues, che poi non ha proprio la forma del blues, ma comunque O Popo Moz Blues, dove ho cercato di raccontare la passione per il blues e quanto è importante il blues, e lo può essere anche per i più giovani. E per fare questo, naturalmente, ho chiamato Roberto Gatto alla batteria, Dario De Ida al contrabbasso, Marco Rinalduzzi alla chitarra e dei ragazzi strepitosi che sono i Neri per Caso. E questo adesso ti faccio ricordare O Popo Moz Blues. O Popo Moz è solo un blues che ha un nome del diavolo, però quando lo canterai le gambe non potrai fermare. O Popo Moz è il nostro blues che swinga forte e ci contagerà, perché chi suona il blues di amici si circonderà. E questo era O Popo Moz Blues, brano scritto per il film omonimo di Enzo Dalò. E siamo ai saluti, grazie a Roberto Gatto per la partecipazione al soundcheck di Radio 24. Io ti auguro ogni bene per te, per la famiglia, per i tuoi progetti in musica, per il cinema e soprattutto per il Music Inn, del quale sei diventato il direttore artistico, quindi ancora tanta musica per te, Roberto. Grazie a voi, c'avevo siccome tante poche cose a cui pensare, me ne sono presa un'altra, che è appunto il Music Inn. Lo faccio con grande piacere, ma fa parte appunto delle sfide della mia vita, quindi questa è una bella esperienza che faccio con grande passione. Allora, parlando della tua musica che ricorda immagini, o comunque quando scrivi pensi a qualcosa che hai vissuto e quindi al tuo personale film della tua vita, fra i miei brani preferiti, fra le tue composizioni, c'è questo brano intitolato Scandalo all'ombra. Io lo trovo bellissimo, mi ha portato indietro nel tempo, proprio quando stavo sulla spiaggia con le mie fidanzatine negli anni 70. Grazie a Roberto Gatto e a tutti voi, buon pomeriggio e buona musica. musica qui su Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica.